Capitolo IV. Il simbolismo liturgico. Nella liturgia il credente incontra un mondo ricco di segni e immagini dense di contenuto, gesti, movimenti, azioni, oggetti, luoghi e tempi significativi e via dicendo. Dinanzi a essi sorge il problema: quale significato ha mai tutto questo nelle relazioni tra l'anima e Dio? Dio è al di là di ogni spazio. Cosa ha egli a che fare con minute prescrizioni riguardante lo spazio? Dio è al di sopra del tempo. Che valore ha per le relazioni con lui tutta la divisione e distribuzione del tempo, a cominciare dalle ore liturgiche fino all'anno ecclesiastico? Dio è assoluta semplicità. Come lo possono riguardare movimenti, azioni, oggetti rituali? Ma rinunciando ad approfondire oltre la questione e accontentandoci di riaffermare che Dio è spirito, non possiamo elevare questo dubbio. Può in genere quanto è materiale avere un significato nelle relazioni tra l'anima e Dio puro spirito? Non è fatale che codesto elemento materiale falsi e abbassi tali relazioni? Eppur concedendo che l'uomo è costituito di anima e di corpo, che egli pertanto, non essendo puro spirito, deve subire influssi da parte del corpo nella sua vita spirituale, non costituisce questo una deficienza cui opporsi? Non deve essere compito del vero culto di elevarsi a un'adorazione di Dio in spirito e verità e di tendere, perlomeno nei limiti del possibile, a eliminare il corporeo e il materiale? Anche tale problema conduce al cuore di ciò che è la liturgia. Che valore ha mai per noi l'elemento materiale come mezzo di ricezione e di traduzione di realtà spirituali, come mezzo di impressione ed espressione spirituale? Il nucleo più intimo della questione sta nel modo in cui l'io vive nell'ambito del proprio essere spirituale materiale, nel rapporto tra anima e corpo. In una forma determinata di questa esperienza di sé, lo spirito si presenta fortemente distinto dal corporeo. Lo spirituale appare un mondo in sé chiuso, che si trova al di qua, o meglio, al di là del corporeo, e con questo ha poco o nulla a che fare. Spirituale e corporeo sono sentiti come due ordini di realtà che stanno l'uno accanto all'altro, fra i quali esiste sì un commercio, ma tale soltanto che sembra più un passaggio o trasposizione dall'uno all'altro che una immediata collaborazione reciproca. È una concezione spiritualistica che ha ricevuto la sua espressione metafisica estrema, per esempio, nella monadologia di Leibniz e quella psicologica nella dottrina del parallelismo psicofisico. È chiaro che su queste basi all'elemento corporeo può essere attribuito solo un significato più o meno contingente nei riguardi dello spirito. Il corporeo è sì unito con lo spirituale, questo ha sì pure bisogno di quello, ma per la specifica vita del secondo il corporeo non deve assumere importanza. Lo spirito deve sentirlo come un impedimento e una contaminazione. Ciò che esso cerca, la verità, l'impulso morale, il bene religioso, Dio e il divino, esso si sforza di raggiungerlo per via meramente spirituale, e anche se non ignora che ciò gli è irraggiungibile, s'affatica tuttavia ad avvicinarsi alla pura spiritualità almeno quanto è possibile. Il corporeo, per un uomo siffatto, è una tara, un'imperfezione che fatalmente trova in sé e cerca di eliminare. Nel caso migliore, egli attribuisce al corporeo una certa importanza esteriore, lo accoglie quale mezzo di spiegazione dell'elemento spirituale, come esempio, come allegoria, ma sempre con la piena consapevolezza di far propriamente una concessione inammissibile. E coerentemente il corpo non sarà per lo spirito neppure organo adatto ad esprimere adeguatamente la sua vita interiore. Anzi, esso non avrà neppure l'esigenza di esprimere in forme sensibili il contenuto della sua vita spirituale, giacché per esso lo spirituale riposerà in se stesso, oppure si esprimerà nella semplicità dell'atto morale o della nuda parola. La persona che ha tale disposizione deve incontrare grosse difficoltà nella liturgia. Essa inclina naturalmente a una pietà severamente spiritualistica che cerca di respingere il corporeo, di dare una forma al possibile semplice e nuda a ogni manifestazione dell'animo e attribuisce il massimo valore alla mera parola come alla forma spirituale della comunicazione. A questo temperamento spirituale se ne contrappone un altro. Per questo spirituale e materiale si trovano intimamente uniti, anzi esso inclina a una fusione dei due domini. Se quello tende a separare il corporeo e lo spirituale, questo si sforza invece di ridurli all'unità. Per codesto tipo l'anima diventa facilmente il semplice aspetto interiore del corpo, il corpo l'aspetto esteriore, la condensazione, la sensibilizzazione dell'anima. Ogni realtà spirituale trapassa immediatamente e si traduce in condizioni o movimenti corporei. Ogni azione esterna è sentita immediatamente anche come qualcosa di spirituale. Questo sentimento dell'unità fondamentale di corpo e spirito può dilatarsi anche oltre l'ambito della propria personalità e accogliere in sé anche le cose esteriori. Allo stesso modo che queste vengono facilmente considerate quali rivelazione di un contenuto spirituale, così possono anche essere valorizzate quale mezzo di espressione per la propria vita interiore. In tal maniera si possono vedere espresse negli oggetti, nelle vesti, nelle istituzioni sociali, nelle cose della natura, anzi nella realtà universale, condizioni, desideri, aspirazioni, lotte del proprio intimo essere. Una concezione spirituale di questo tipo sembra a prima vista avere relazione più stretta con la liturgia. Essa infatti sente assai più immediatamente la forza comunicativa del movimento e dell'azione liturgica, come pure degli oggetti liturgici, e riesce assieme con facilità a servirsi di questi fenomeni esteriori quali espressioni della propria vita interiore. Eppure anche a essa la liturgia presenta le sue difficoltà. Dove lo spirituale e il corporeo sono sentiti come qualcosa che trapassa l'uno nell'altro, che si presenta ora nell'una e nell'altra forma, riesce difficile legare la manifestazione del proprio intimo a forme d'espressione determinate, collegare certe forme, azioni, oggetti e significati espressivi nettamente definiti. La vita interiore è un perpetuo fluire, si muta a ogni istante. Codesta mentalità non può creare nessuna forma espressiva chiaramente e nettamente definita, giacché per essa manca una vera e propria separazione tra spirito e corpo. E non meno difficile riesce una persona così orientata a leggere in date forme di comunicazione sempre gli stessi contenuti. Essa sente piuttosto il loro messaggio come cosa sempre nuova e diversa, in dipendenza dalle proprie disposizioni del momento. In altre parole, nonostante la stretta relazione in cui stanno in questo tipo psichico il corporeo e lo spirituale, a esso manca tuttavia la capacità di legare certi contenuti spirituali a forme esteriori determinate. Si tratti di esprimere il proprio intimo o di accogliere e comprendere un pensiero o stato d'animo altrui che venga dal di fuori. Il che significa che a esso difetta un elemento necessario della potenza simbolizzatrice. Quel temperamento spirituale che abbiamo descritto per il primo, lo spiritualistico, non sapeva raggiungere il simbolo per la propria incapacità di cogliere l'intima relazione che stringe insieme lo spirituale e il materiale. Esso sapeva sì distinguere, delimitare, ma lo faceva in misura troppo grande, al punto che le relazioni andavano perdute. Il secondo tipo di sensibilità descritto possiede la capacità di questa relazione, giacché per esso l'interiore si riversa immediatamente nella forma esteriore. Gli manca però il senso della distinzione e della distanza. Invece relazione e distinzione sono ambedue necessarie a creare un simbolo.